sicuramente sia di aspettative che di eventi. Un anno che purtroppo si è concluso quasi inevitabilmente con quel gesto tragico che appunto aveva scatenato, almeno a livello simbolico, questo malcontento in tutto il mondo arabo. Se pensiamo che proprio il pomeriggio del 5 gennaio 2012, quindi adesso proprio attualmente, cioè di questo nuovo anno, un nuovo caso di autoemulazione, comunque un'altra persona si è data fuoco proprio in Tunisia di fronte ad appunto all'ufficio, diciamo, del governatorato di Gafsa, una regione, questa tunisina, appunto tristemente, non tristemente, nota comunque soprattutto per le proteste che hanno caratterizzato, le proteste contro il regime di Ben Ali, che sono appunto scoppiate dal 2008 ad oggi. Un gesto tragico che fa il pari con quanto avvenuto qualche mese fa, un anno quasi esatto, e che ci dimostra quanto in realtà ci sia ancora da fare in Medio Oriente, nel mondo arabo in generale, e quanto in realtà queste rivolte siano appunto incompiute. Questo gesto effettivamente avviene, ed è ancora più indicativo, in una regione come quella di Gafsa, nel sud-est tunisino, dove appunto una regione, per chi non lo sapesse, una regione importantissima dal punto di vista economico e anche dal punto di vista dell'occupazione in Tunisia, perché sappiamo appunto quanto molto spesso le megalopoli arabe assorbano molto spesso il forza lavoro e allo stesso tempo impoveriscano le regioni magari meridionali, o comunque le regioni dove non vi sono grandi centri urbani, o comunque grandi centri amministrativi che poi dopo assorbono il PIL e producono appunto la maggior parte dei PIL nazionali. La regione di Gafsa è famosa per un bacino minerario gestito comunque da società a partecipazione pubblica, e attorno a questo bacino minerario vi sono appunto tantissime industrie che assorbono la manodopera locale. La regione di Gafsa, proprio per questo e per le politiche invece accentratrici da parte appunto adottate dal regime di Bourguiba prima e di Ben Ali poi, ha subito un processo di marginalizzazione economica molto, molto forte. Regione di Gafsa che non ha smesso di protestare, è stata uno degli epicentri delle rivolte, della rivolta tunisina dal gennaio scorso, e che continua a protestare oggi, con anche se appunto c'è un nuovo governo di marca islamista, governato appunto, cioè diciamo monopolizzato dal partito Ennahda, il partito della rinascita, che ricordiamo lo scorso 23 ottobre all'assemblea costituente ha ottenuto più del 40% dei seggi, che quindi si appresta ad essere protagonista non solo nella scrittura della nuova costituzione tunisina, ma anche appunto proprio nel panorama politico nazionale, con il prossimo il prossimo governo, che comunque sarà nominato tra qualche mese dopo quello ad interim nominato appunto dalla stessa assemblea. Un gesto quindi emblematico, perché la rivolta in realtà in quella regione di Gafsa è cominciata, o meglio l'ultimo stadio della rivolta è cominciato appunto lo scorso 21 dicembre, quando una serie di lavoratori di appunto uno dei gruppi più importanti della regione dal punto di vista industriale, il gruppo chimico tunisino, si chiama proprio il GCT, e che gestisce appunto le risorse minerarie della regione, alcuni lavoratori, dicevamo, sono entrati in sciopero della fame lo scorso 21 dicembre e hanno attivato dei sit-in importanti proprio per chiedere una stabilizzazione della propria posizione lavorativa. Molto spesso infatti in queste industrie, questi gruppi aziendali, queste grandi imprese assorbono manodopera dalla regione, ma sempre appunto con condizioni economiche veramente da fame, molto spesso con dei lavori e degli impieghi stagionali. Dal 21 dicembre scorso si è attivata quindi per l'ennesima volta la protesta, si è attivata la popolazione per cercare e per chiedere un maggiore assorbimento, una maggiore occupazione e anche maggiori risorse rispetto appunto ad un territorio che è martoriato ed è semplicemente sfruttato dalle aziende nazionali tunisine per appunto per captare e per ottenere profitti dal bacino minerario di Gafsa. A questo caso tunisino Altri movimenti di protesta ancora oggi ci sono in tutta la regione, se pensiamo anche alle rivolte dei villaggi che continuano anche nel Marocco interno, in quel cosiddetto Marocco profondo che appunto non viene spesso raccontato, non viene spesso descritto, ma che in realtà sta giocando un ruolo essenziale anche in un paese come il Marocco, dove in realtà la rivolta non ha assunto caratteri, diciamo, nazionali diffusi come per esempio in Egitto. Le rivolte di villaggio, per esempio nella zona appunto di Imiter, che sarebbe appunto la zona Imiter, sarebbe una zona appunto del Marocco interno molto importante soprattutto per le miniere e i giacimenti di argento. Anche qui sfruttati da chi? Sfruttati in questo caso dalla, appunto, da aziende nazionali che però coincidono per proprietà e per titoli appunto con la famiglia monarchica che gestisce il potere in Marocco da ormai ormai qualche secolo. E anche qui rivolte importanti che si associano e si affiancano alle proteste del movimento del 20 febbraio. In Marocco presente appunto dal famoso 20 febbraio 2011, quando una serie appunto di attori politici ha tentato di seguire la scia delle rivolte nel mondo arabo per cercare di appunto ottenere dei cambiamenti radicali. A queste proteste dobbiamo aggiungere quanto sta accadendo anche ancora oggi in Egitto, al di là della farsa elettorale che ci permette in realtà rivolte che ci permettono di comprendere come processi elettorali come quello egiziano e quello tunisino in realtà non abbiano risolto i problemi immanenti, i problemi presenti storicamente in quelle regioni. Quindi oggi cercheremo un attimo di fare appunto delle riflessioni, non dico conclusive, ma comunque delle riflessioni dopo un anno per comprendere come in realtà quali erano le aspettative di quelle popolazioni e quanto in realtà queste aspettative fino ad oggi non siano state appunto esaudite o comunque non si siano concretizzate in nulla di veramente importante. Diciamo che le rivolte nel mondo arabo potremmo classificarle oggi secondo appunto vari criteri. Da una parte vi sono dei processi diciamo di transizione democratica, potremmo definirli così, come appunto in Egitto e in Tunisia, che hanno portato alla costruzione di momenti elettorali. Dall'altra vi sono delle rivolte che invece continuano ad essere gestite completamente dall'alto, come per esempio in Yemen, dove è avvenuto un processo di tribalizzazione. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa appunto con uno dei testimoni, con un compagno appunto yemenita, e dove in realtà la rivolta è stata strumentalizzata dalle forze politiche tradizionali e le forze tribali appunto, che per un gioco di alleanze hanno deciso di sfruttare le sollevazioni degli studenti yemeniti per ottenere un cambio di regime, ma senza appunto mutare la struttura del potere costituito. Vi sono poi invece dei paesi come appunto in Giordania o in Marocco, dove i regimi guidati appunto da monarchie hanno deciso di concedere, anticipare quasi movimenti di protesta più estesi, di fare delle concessioni attraverso, per esempio, penso al caso marocchino, della scrittura e della, come dire, della diffusione, della pubblicazione di una nuova costituzione che teoricamente, secondo loro, avrebbe dovuto garantire maggiori diritti alla popolazione marocchina, e quindi cercando anche di tarpare movimenti di protesta che comunque in realtà sono continuati. Vi sono poi delle mancate, tra virgolette, rivolte. Pensiamo al caso algerino, che in realtà proprio un anno fa era stato forse il primo paese dopo la Tunisia a mobilitarsi in massa contro l'oligarchia comunque sempre militare che aveva preso il potere e che ha consolidato il proprio potere dopo la guerra civile che ha caratterizzato gli anni 90. Vi sono poi appunto la mancata sollevazione della regione, nella regione palestinese. Vi è la rivolta siriana che continua oggi ancora a mietere vittime, soprattutto per la fortissima repressione di Al-Assad, e che vede comunque attori anche qui appunto da decifrare. Vi è stato il caso libico, dove in realtà anche qui più o meno sul modello Yemen, anche se è uno stato più avanzato, delle forze politiche in precedenza in combutta con il regime di Gheddafi sono riuscite a prendere il potere, non il controllo del paese, attraverso il Consiglio Nazionale Transitorio, con il sostegno appunto delle potenze, soprattutto della NATO, delle potenze occidentali, che oggi si trovano appunto a dover affrontare una situazione di instabilità quasi appunto cronica, perché chi è stato rifornito di quelle armi, chi è stato rifornito di quel materiale bellico che ha permesso di cacciare Gheddafi, oggi non vuole lasciarlo, quindi non vuole delegare ad altri il controllo, sia il monopolio della violenza che naturalmente poi il controllo delle risorse e delle regioni libiche. Quindi la situazione è molto contrastata, vi sono, diciamo, appunto differenti esiti per le rivoluzioni che vanno naturalmente indagati caso per caso. Fatto sta che comunque i problemi sociali ed economici di queste regioni non sembrano aver ottenuto risoluzione né in quei paesi dove appunto si sta assistendo ad un processo elettorale, né in quei paesi dove sono state fatte delle concessioni per anticipare e per cercare di cooptare il malcontento che comunque si produceva dal basso, né in quei paesi dove una transizione pilotata dall'alto c'è stata e che comunque appunto non sta producendo nulla di buono. Ecco, io volevo farti infatti questa domanda. Dunque, a un anno dalle rivolte, e come dicevi tu, c'è un problema della non chiara identificazione dei soggetti in campo in queste rivolte. Si è parlato di popolazioni contro i regimi, che però sappiamo i due termini sono abbastanza confusionari. E difatti le vicende l'hanno poi confermato. Il problema però è che, come appunto dicevi tu e come hai raccontato in tutto quest'anno, le richieste formali evidenziate da queste rivolte sono state prevalentemente di carattere istituzionale, cioè quello che è venuto fuori è chiedevano più democrazia. Questo è venuto fuori perlomeno sulla stampa occidentale e in qualche modo di rimbalzo anche all'interno, la stampa interna e soprattutto secondo me quel grande mentore, che però è molto sporco come gioco, che ha fatto Al Jazeera e all'Arabia, che purtroppo vengono presi come oracolato, soprattutto la prima qui in Occidente. Invece chiaramente il Qatar ha un interesse molto sporco, gioca sporco in quelle realtà, e l'hanno messa come il popolo chiede più democrazia e quindi bisogna chiedere. In realtà, se vediamo bene, il ragazzo Aziz, ora non ricordo il cognome, che si è dato fuoco, era un problema puramente sociale, cioè economico-sociale. Lui non gli davano la possibilità di poter lavorare, cioè tirare fuori un reddito dalla vendita ambulante che faceva. Quindi la prima protesta era proprio su questo terreno della inadempienza della struttura amministrativa tunisina nei confronti di chi tirava da mangiare con le difficoltà. Il fatto che Ben Ali avesse messo in piedi tutta la struttura di carattere turistico, no? Aveva in piedi tutte queste, sì, dove lavoravano a salari infernali bassi i lavoratori tunisini. In Egitto addirittura, e ce l'ha raccontato molto bene l'altro anno, la prima di Piazza Tahrir e in maniera più importante secondo me di Piazza Tahrir fu la rivolta nel settore del bacino industriale. Kubra, perfetto. Quindi in realtà credo si possa valutare due fenomeni. Uno, il cambiamento di obiettivi sociali di classe, potremmo dirli, da cui era partita la rivolta, sono stati mischiati, e qui sarebbe da capire le inadempienze, chiaramente la mancanza di un soggetto organizzato proletario forte in questi paesi, ovviamente il lavoro sporco che hanno fatto gli occidentali, anche quelli di sinistra eccetera, che hanno confuso un obiettivo sociale di classe e portando un obiettivo istituzionale, quindi contro il despota, contro il regime, contro la dittatura, per la democrazia, invece che aumenti salariali, maggior potere alla classe lavoratrice, con tutte casomai le istanze, nascita di sindacati non di Stato ma veramente indipendenti eccetera eccetera. E dall'altra parte appunto la confusione sul soggetto, una rivolta il cui il 90% secondo me, la gran parte, era appunto settori proletari in malessere, pensiamo al Cairo, Piazza Tahrir, il Cairo poi ce la può raccontare, quanti è? 22-23 sì, siamo sui 24 mila abitanti, in cui tre quarti sono veramente sottoproletari, semiproletari a livelli di fame, e che hanno dato il grosso di pressione, che però poi appunto si sono visti la richiesta più democrazia, ora che ci fanno però ogni tanto c'era di nuovo la nascita di 65 sindacati indipendenti nei settori industriali, sempre in Egitto, l'occupazione delle case, quindi ogni tanto riemergeva il problema sociale di classe in queste rivolte, però poi veniva soffocato. Allora, un elemento, uno, questa eccessiva secondo me esaltazione della piazza, come sembra un po' l'Ottocento europeo, non per fare i paragoni, però chiaramente non abbiamo quell'esperienza ed è vero, l'Ottocento europeo, ricordate, tanto è vero la confusione della prima internazionale, per carità, senza togliere niente, però quel quacervo di primo movimento operaio un po' primitivo che vedeva nella piazza, nella barricata, l'elemento risolutore del conflitto sociale, e in realtà nella piazza ha perso il movimento operaio, il primo movimento operaio in Europa, e poi si è spostato sul terreno forte dove ha costruito la sua forza, cioè il posto di lavoro, il quartiere, la realtà dove vivono e lavorano i proletari. La stessa cosa, non sappiamo quale sia il percorso, ora il percorso che faranno loro sarà loro. Io però vorrei un po' demitizzare quello che qui ancora da noi si porta, da noi la parola Piazza Tahrir assume il simbolo della rivolta. Attenzione, quello è il simbolo un po' della sconfitta, perché aver, secondo me, appunto fissato l'attenzione alla piazza e alla non presenza del soggetto reale che poteva trasformare, ma un soggetto confuso, popolo, democrazia, su un obiettivo appunto altrettanto confuso come democrazia, ha portato invece alla sconfitta. E in Egitto vediamo quanto sta costando. Sì, il problema, hai detto, sono d'accordo, perfettamente d'accordo con te. Da una parte tu hai usato spesso il termine riemergere, no? Riemergere il problema sociale. In realtà una delle prime necessità che noi avremmo, e che in realtà sentono anche in Egitto, come anche in Marocco, in Tunisia, una delle prime necessità avvertite è quella di una ricostruzione, proprio una ricostruzione di una storia delle tra virgolette proteste che si sono verificate in quella regione negli ultimi 10-15 anni. Perché? Perché se andiamo ad indagare in maniera dettagliata sugli avvenimenti, su quegli eventi che hanno veramente costruito contestazione, costruito come dire delegittimazione dei regimi autoritari, si va a vedere in maniera molto molto evidente che in realtà le lotte e le mobilitazioni più importanti non sono avvenute per la rivendicazione di diritti, diciamo tra virgolette, civili, come possono essere quelli appunto di una maggiore democrazia o trasparenza nelle urne, ma per la rivendicazione di diritti sociali. Questo è avvenuto appunto in Egitto dal, diciamo, dopo lo scoppio della seconda intifada, quindi dal 2000 in poi, è avvenuto in Tunisia, è avvenuto in Marocco, è avvenuto in Yemen. Quindi stiamo parlando in realtà di una storia delle proteste, una storia delle mobilitazioni che vedono la richiesta di maggiore democratizzazione in senso molto molto stretto e molto anche tra virgolette occidentale, come un fattore minoritario rispetto alle rivendicazioni di carattere socio economico. Questa ricostruzione storica è necessaria anche a loro in primis, perché questi movimenti hanno visto la luce nei media occidentali, ma anche nei media appunto arabi, quando in realtà altri movimenti minoritari, in parte anche elitari, per esempio penso alle ONG, penso alle sigle che hanno fatto parte del movimento Kifaya in Egitto dal 2005-2006, sono emersi. Perché? Perché questi movimenti adottavano un linguaggio, adottavano delle pratiche simili a quelle nostre e quindi maggiormente, più facilmente interpretabili o comunque mediatizzabili, se posso utilizzare questo neologismo. Allora sembra appunto, ed è sembrato in tutti questi mesi, che quelle popolazioni fossero rimaste inerti per tutto questo periodo. Non è stato così. Vi è stata da una parte una fortissima mobilitazione, crescente soprattutto nell'ultimo decennio, che non ha avuto una propria storia, nel senso che non è stata descritta, e ancora oggi in realtà non viene descritta, perché quello che sta avvenendo in Tunisia oggi è veramente raccontato da pochissimi organi di informazione, e solo nel momento in cui vengono a contestare chi? I partiti islamisti oggi al potere, per esempio in Tunisia, quindi con un'ottica in realtà di contestazione di un partito islamista per altre strategie, non come una soggettività che a poco, aggregandosi e mobilitandosi, sta cercando di costruire una differente come dire, relazione di differenti relazioni di potere all'interno dei paesi. Esaltazione della piazza. Tahrir è stato l'epicentro mediatico delle rivolte, non è stato l'epicentro sostanziale della rivolta in Egitto. Non si parla mai della zona di Suez, ma chi conosce la realtà egiziana sa benissimo che in realtà quella regione ancora oggi è una regione fortemente caratterizzata da delle proteste di carattere socio-economico, una regione dove assistiamo a processi di auto-organizzazione importanti attraverso i sindacati indipendenti, e che in realtà stanno costruendo percorsi paralleli, a volte in realtà non come dire, non uniti ai processi elettorali che vengono comunque maggiormente mediatizzati, così nella zona del delta del Nilo, quindi vicino a sud di Alessandria. Quindi vi sono in realtà i luoghi di lavoro che sono stati e sono ancora oggi protagonisti della mobilitazione, che in realtà non vengono raccontati e quindi di fatto per noi non esistono. Vi è quindi un problema di descrizione e di rappresentazione e quindi anche di ricostruzione di questi eventi, e questo lo si vede anche attraverso alcune analisi che vengono fatte oggi proprio da alcuni politologi e da alcuni storici che cercano proprio di riscrivere la storia di quei paesi in funzione di quanto accaduto degli ultimi mesi. Si pensa per esempio al fatto che un ricercatore americano per esempio ha studiato negli ultimi gli eventi o comunque le mobilitazioni in Egitto degli ultimi 4 anni e ha dimostrato come in realtà in Egitto ci siano state più o meno in media 465 mobilitazioni all'anno, quindi molto più di una al giorno, mobilitazioni anche piccole, magari comunque sicuramente non descritte, no? Dalle zone dell'Alto Egitto, quindi diciamo verso Luxor, no? Alto Egitto si intende comunque il sud egiziano, se lo intendiamo con i nostri parametri, verso le foci, le sorgenti del Nilo, come anche appunto nelle zone del canale di Suez o nella zona del delta del Nilo. Quindi in realtà le grandi città che hanno avuto un ruolo, come dire, monopolizzatore per quanto riguarda la stampa, e che hanno giocato comunque un ruolo importante soprattutto nella fase finale di cacciata dei regimi, non fanno parte di quel tessuto sotterraneo di rivolte e proteste che hanno in realtà veramente delegittimato il regime alla base e che hanno portato poi alla cacciata di questi diciamo dittatori, ma non, lo ripetiamo ancora una volta, al mutamento sostanziale delle condizioni e delle regole del gioco quindi effettivamente sì, vi è un problema di questo tipo. Per quanto riguarda la piazza e il paragone che facevi appunto con l'Europa, effettivamente se pensiamo ai moti che si sono sviluppati in Europa dagli anni 20 dell'Ottocento fino ai primi anni 60 con appunto per il grande picco del 48 europeo, vediamo come appunto quello spontaneismo che in parte può essere davvero associato a quanto avvenuto nel Medio Oriente oggi, senza fare appunto paragoni troppo sistematici, ma in realtà sì, cioè, il paragone in parte regge, non ha prodotto nell'Ottocento europeo a dei risultati effettivi nel breve periodo. Ha prodotto che cosa però? Ha prodotto la diffusione di una cultura della protesta che comunque successivamente, grazie soprattutto all'organizzazione, e quindi da cultura della protesta si è arrivata a organizzazione della protesta, poi dopo, nei decenni a seguire, ha avuto effetti comunque importanti. Ecco, quello che sta avvenendo e che speriamo magari accada nelle regioni nel Medio Oriente nei prossimi mesi, nei prossimi anni soprattutto, sarà appunto quello che ci auguriamo è che questa cultura della protesta, che inizia comunque a strutturarsi, e qui c'è da dirlo, ancora in questo caso l'Egitto sembra appunto assumere un ruolo di avanguardia perché anticipa alcuni processi di auto-organizzazione che sembra si diffonderanno e si stiano diffondendo anche in altre realtà come quella tunisina. Organizzazione dei lavoratori significa poi contestare i nuovi attori politici considerati modello, comunque protagonisti di questi nuovi processi democratici, contesteranno e quindi metteranno in difficoltà, dovranno, sarà loro mettere in difficoltà questi attori politici nelle scelte nelle scelte diciamo più sostanziali. Quando pensiamo al partito Ennahda e al suo programma neoliberista promosso da novembre ad oggi in maniera molto mediatizzata anche attraverso appunto convegni al Parlamento europeo, quindi in varie città, in vari paesi, la visita degli Stati Uniti d'America appunto, anche lì vediamo appunto come poi i lavoratori della regione per esempio del bacino minerario di Gafsa proprio quasi incuranti di quello che è successo appunto all'interno dei processi diciamo elettorali, chiedono quello che chiedevano prima e per ora risposte non ne hanno avute. Si parla naturalmente di promesse, promesse molto spesso fatte veramente solo più che altro per gli occhi della stampa occidentale. Una delle ultime più bizzarre fatte appunto dal leader spirituale del partito Ennahda, Rashid al-Ghannouchi, era appunto l'unificazione della Tunisia, prima proposta all'Algeria e poi successivamente proprio qualche giorno fa proposta alla Libia, governata oggi dal Consiglio Nazionale Transitorio. Una unificazione fondata non appunto su quell'internazionalismo che potremmo sperare noi, appunto l'internazionalismo proletario, ma fondato sui vincoli, sui legami, diciamo, di carattere politico-religioso, dicendo appunto che siamo entrambi di scuola, sono entrambi paesi dove domina la dottrina sunnita melichita, quindi appunto un vincolo teorico-religioso, e quindi per questo non ci dovrebbero essere frontiere tra i paesi. Si contesta la frontiera in un'ottica appunto di appartenenza religiosa a quella grande umma, no? Come viene definita nella religione islamica, che è appunto la comunità dei credenti. Richieste astruse che in realtà in parte anche vogliono coprire quelle difficoltà, esatto, che il partito El Nahda sta avendo, affrontando assieme agli altri due partiti della coalizione di governo, perché difficoltà ce ne sono, e soluzioni come queste, che potrebbero naturalmente portare alla Tunisia un grandissimo PIL per le risorse petrolifere libere, non, libiche, non, in realtà non saranno appunto concretizzate mai. Immaginatevi voi che la popolazione libica, o comunque, ma lo stesso già solo governo provvisorio libico decidesse, o possa veramente decidere di concedere i propri barili, i proventi dei propri barili, certo, ad altri paesi, insomma, no? Progetti di questo tipo sono già stati prodotti e proposti in passato, con forse rivendicazioni paradossalmente ma più convincenti di queste proposte oggi dal partito El Nahda, e comunque sono fallite, perché non partivano da esigenze, diciamo, di base, ma partivano da convinzioni dogmatico-religiose che poi appunto lasciano il tempo che trovano nella sostanza dei fatti, insomma, nella realtà. Cioè, se vogliamo trarre, diciamo, un primo bilancio che speriamo sia appunto ribaltabile nei prossimi periodi, possiamo dire che però cioè queste rivolte hanno portato nella prima fase un consolidamento della borghesia liberista agganciata al capitale internazionale, non perché i vecchi regimi non fossero, ma i vecchi regimi erano agganciati ad alcuni settori particolari del capitale internazionale. Questi sono più, diciamo, borghesia imperialista, più legati quindi a un processo di mercato comune anche mediterraneo, quindi è un consolidamento di quel settore, e d'altronde lì puntavano facendo fuori Mubarak, i Ben Ali, e ci provavano anche nell'Algeria, ma non gli è riuscito fare questo grande mercato comune che spostasse, diciamo, il mercato europeo anche al sud del Mediterraneo. E quindi questi soggetti appunto sono interclassisti, hanno in sé un populismo però appunto sostanzialmente interclassisti, e poi hanno queste contraddizioni interne. Sta di fatto che però aggregano sul piano elettorale gran parte del proletariato, dei settori poveri dell'Egitto, in parte riferiamo all'Egitto che è un po' il punto. Sì, sì, non solo l'Egitto, ma anche appunto ricordiamo la testimonianza di questo compagno yemenita, no? Ci diceva la popolazione yemenita in realtà oggi non è pronta per una rivolta di questo tipo, perché lui ci descriveva come i capi tribali avessero sostenuto la coalizione islamista che aveva preso, diciamo, il sopravvento, l'egemonia delle rivolte da marzo, da fine febbraio, inizio marzo dell'anno scorso, e come le popolazioni appartenenti a quei capi tribali abbiano sostenuto in maniera cieca appunto quello che i loro capi dicevano, i loro sheikh dicevano, senza in realtà poi andare a vedere che cosa proponevano appunto questi capi tribali alla popolazione, ma solo per una presa del potere. Quindi effettivamente manca in parte ancora una coscienza di massa. Questo non è un problema solo medio orientale, però comunque è effettivamente importante comprendere come il slogan, come appunto quelli proposti dai partiti islamisti, siano accattivanti per una base, una popolazione comunque purtroppo anche non abituata a parlare di politica, a discutere di politica, e questo in parte naturalmente è anche responsabilità degli autoritarismi passati. Non si può negare che quando per 30-40 anni si annulla completamente la vita politica all'interno di un paese e sia praticamente impossibile qualsiasi tipo di attività clandestina per la forte repressione che i soggetti politici, tra virgolette, rivoluzionari avevano avuto all'epoca, è difficile oggi ricostruire da zero un percorso veramente emancipatore con il coinvolgimento di tutte le masse popolari, perché non vi è un sostrato di non vi è un linguaggio comune, non si avvertono quelle esigenze anche di carattere socio-economico come appunto dovute ad una presa di coscienza, diciamo, generalizzata. Quindi anche qui il percorso è lungo, perché queste stesse persone che poi magari inizialmente in maniera trasversale hanno sostenuto immagino appunto penso agli studenti yemeniti che comunque hanno ottenuto un grandissimo sostegno da parte della popolazione yemenita, e poi successivamente quando quella rivolta in Yemen è stata presa e egemonizzata dalle classi, dai partiti islamisti e dai militari e dai capi tribali, questa popolazione ha comunque continuato a sostenere chi si opponeva al dittatore in maniera appunto poco cosciente, insomma, senza nessun tipo di senza fare nessun tipo di distinzione. Quindi vi è una presa di coscienza che naturalmente porterà e necessiterà di un periodo medio lungo. Quello che possiamo fare noi è naturalmente comprendere come cercare anzitutto di enfatizzare, dare voce a quelle proteste che in realtà vanno al di là di quei percorsi pseudodemocratici che vengono descritti dalla stampa mainstream, e poi allo stesso tempo cercare di comprendere come fenomeni di auto-organizzazione, per quanto piccoli, si stiano in realtà estendendo, anche se appunto con tempi e modi differenti da paese a paese, in tutto il Medio Oriente. E questo davvero lo vediamo anche con il caso marocchino, dove non vi è stata una vera rivolta, perché ricordiamolo, appunto, Mohammed VI ha promulgato una nuova costituzione il primo luglio del 2011, dove si accordavano teoricamente maggiori libertà alle parti sociali e alla popolazione contemporaneamente marocchina. Però alle galere piene di oppositori, naturalmente. E poi appunto allo stesso tempo però quella protesta del movimento del 20 febbraio era in realtà affiancata ad una protesta sociale importante che negli ultimi anni non è stata quasi mai descritto, comunque, e non descriverla significa anche non mediatizzarla, significa anche lasciarli ad una repressione bruta e cieca, come appunto avvenuto in passato, penso proprio al Marocco, alla Tunisia. Quando queste persone hanno anzitutto assumono loro la coscienza di essere protagoniste, assumono loro la coscienza di essere veramente determinanti negli equilibri di potere interno al proprio paese, e quando quindi queste richieste vengono mediatizzate e diffuse anche a livello macro regionale, lì veramente i regimi stessi devono temere e hanno paura. Questo lo si è visto proprio con la reazione che la monarchia marocchina ha avuto negli ultimi giorni, proprio in riferimento alle proteste di cui vi parlavo nel bacino diciamo minerario di Imiter, dove in realtà non vi è stata una durissima repressione come invece era avvenuto un anno fa e due anni fa nella stessa regione, perché temono che questo sentimento e questa cultura tra virgolette della protesta possa in realtà poi sfociare in qualcosa di più grande e non possa più essere cooptato come avvenuto negli ultimi mesi. Quindi questa diciamo è la situazione diciamo adesso. Prendiamo uno stacco musicale e poi riprendiamo tra un po'. Questi paesi che hanno visto le rivolte. E allora, per concludere, diciamo, questo primo elemento così di riflessione, stante il fatto che c'è questo tentativo così interclassista, populista, di affogare i contenuti e gli obiettivi proletari nati pure all'interno di questa cosa, quindi tu notavi l'assenza di coscienza di classe, no, in questo sviluppo, quali sono prodotti da questo periodo di rivolte i soggetti, diciamo, organizzazioni, sindacati e anche i giornali della sinistra di classe in questi paesi? Sì, effettivamente, se pensiamo ai soggetti, quando parlavamo di mancanza di coscienza di classe, dobbiamo pensare anche al fatto che vi è naturalmente un protagonismo maggiore di alcuni soggetti, non per forza organizzati. Pensiamo all'Egitto degli ultimi 4-5 mesi, dove in realtà sta avvenendo un fenomeno visto quasi con curiosità e con stupore da parte dei media, degli stessi media arabi, ovvero il fenomeno del protagonismo di alcune tifoserie, no? Ultras egiziane, che in realtà erano le uniche che in passato diciamo, avevano contestato proprio a fronte, a viso aperto, le forze armate, che avevano anche qualche conto aperto con loro, e che in realtà molto spesso si sono dimostrate molto efficaci a tutelare la piazza quando hanno assunto contenuti politici maggiori. Naturalmente questo in un'ottica di uno scontro, diciamo, tra virgolette violento con chi detiene il potere anche militare in quei paesi. Vi sono dei soggetti che stanno aumentando, come dire, il loro protagonismo all'interno delle piazze per il loro savoir-faire, per il loro sapere proprio pratico. Vi è però una carenza poi nell'organizzazione di questi movimenti in strutture che possano rendere efficace e costante l'attività nel medio-lungo periodo. Questo lo si è visto in Egitto, dove in realtà organizzazioni erano nate dopo la rivolta, appunto, del gennaio-febbraio scorso, e che purtroppo sono state progressivamente scalzate dai partiti maggiormente strutturati, e purtroppo hanno capito, non tanto per colpa loro, che era impossibile avere un protagonismo all'interno di quegli spazi che venivano concessi loro da quei partiti, come poteva essere Midan Tahrir, la piazza appunto epicentro mediatico della rivolta in Egitto. Penso al Movimento dei Socialisti Rivoluzionari, ma anche a tante organizzazioni come dei sindacati indipendenti che si sono mossi fino a un determinato momento con quelle forze politiche che sembravano sostenerli, e che poi successivamente hanno deciso di allontanarsi completamente da quei processi detti di transizione democratica, come appunto il momento elettorale, perché vedevano che in realtà in quei processi, attraverso quella strada, non avrebbero in realtà maturato un protagonismo e avrebbero anche perso loro di consensi. Quindi vi sono in realtà poi delle difficoltà oggettive da parte di quei pochi movimenti che si sono organizzati all'interno dei luoghi di lavoro, di avere referenti politici necessari sia all'interno che all'esterno, perché anche qui vediamo l'imbarazzo, la difficoltà e anche le colpe dei movimenti sindacali, del sindacalismo di base europeo, in parte soprattutto italiano in realtà, nel sostenere in maniera aperta questi processi di emancipazione. Vi sono stati pochissimi comunicati e davvero proprio simbolici, solo per dire che si stava dalla parte giusta. Vi è la mancanza di organizzazione, vi è in parte anche la mancanza di riferimenti anche culturali, perché sì, è vero che vi è stata una proliferazione della stampa indipendente all'interno del, per esempio, in Egitto, come anche in Tunisia, ma una proliferazione talmente ampia e talmente improvvisa che ha portato anche poi dopo ad un indebolimento di quelle idee forti che in realtà all'inizio erano state cardine delle proteste. La stampa in Egitto sicuramente oggi è più libera rispetto alla stampa di regime, e lo si vede dallo stesso Al-Ahram, che è giornale appunto di governo, giornale pubblico, insomma. Però allo stesso tempo quei fogli e quei giornali che hanno fatto inchieste, stanno facendo inchieste veramente importanti sui movimenti auto-organizzati, soprattutto nel mondo del sindacalismo, non hanno quella tiratura o non hanno quella diffusione che uno potrebbe sperare di vedere, insomma, attuata. Quindi e anche qui si ritorna appunto alla mancanza di un'organizzazione che possa permettere poi anche la diffusione capillare di quei valori e la diffusione capillare di una consapevolezza di legami tra differenti lotte, molto spesso divise o comunque frammentate, come può essere il movimento della casa per le occupazioni di case in Egitto, il movimento del sindacalismo diciamo indipendente, i movimenti anche per i diritti civili, perché no, legarli tutti ad un unico fattore non sarebbe male, se ci fosse dietro un'analisi o comunque un'organizzazione che tendesse a legare queste differenti forme di protesta ad un'unica problematica, che poi naturalmente a mio avviso è la problematica della lotta di classe e del protagonismo delle classi subalterne all'interno delle relazioni di potere in quei paesi. Che cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi? Naturalmente vedrete, assisterete a appunto un tantam mediatico sui partiti islamisti che hanno preso il potere in Egitto ed in Tunisia, e quindi naturalmente anche lì ci sarà tutto un gioco un gioco di parole, un gioco di parole nel contestare o meno la legittimità di questi partiti islamisti, nel contestare o meno l'idea che l'Islam possa governare quelle regioni, e naturalmente non concentrandosi invece sull'attività che questi partiti porteranno avanti dal punto di vista politico e soprattutto sociale, non ignorando quei movimenti che in realtà li stanno contestando sotto altre basi che non sono quelle appunto portate avanti dalla stampa internazionale, ovvero se l'Islam sia o meno compatibile con la democrazia, che è un falso problema, perché non parte dai presupposti pratici, ovvero dei beni, come dire, delle condizioni materiali della popolazione in quei paesi. Assisteremo a questo, assisteremo naturalmente al cambiamento di alcuni dei nomi, delle etichette di alcuni regimi, come in Yemen, e penso purtroppo anche al caso siriano, oltre che quello libico, e lì bisognerà vedere se appunto ci saranno poi veramente si produrranno solo delle guerre civili, quindi intestine ai paesi per una presa del potere, o se ci saranno poi dei movimenti che dal basso si allontaneranno da queste logiche per costruire percorsi alternativi. Il panorama dopo ad un anno dalle rivolte non è certo esaltante. Non vogliamo per questo smontare quanto di buono è stato fatto e anche i sacrifici che sono stati portati avanti dalle popolazioni arabe nella regione. E forse veramente l'unico dettaglio positivo sono appunto questi, l'unico fattore positivo sono questi fenomeni di auto-organizzazione che stanno in realtà veicolando una cultura della protesta che sta diventando di massa. Quindi poi bisognerà vedere quanto questa cultura si organizzerà, insomma, e riuscirà a diventare solo che efficace. Però il caso che ci raccontavi tu qualche mese fa di quella grossa occupazione di massa, sì, decine di migliaia di persone in quel quartiere del Cairo, sì, quindi un grosso fenomeno di classe, veramente con un segno ben preciso, tuttavia qui ne abbiamo parlato, però il resto della stampa, anche quella di sinistra tra virgolette europea, l'ha ignorata, e gli obiettivi di tutti, destra e sinistra, erano puntati su Piazza Tahrir, mentre la nascita dei sindacati ignorata a nord dell'Egitto, l'occupazione di case, tutti i processi di massa venivano completamente ignorati. Quindi voglio dire, c'è anche queste cose contano in una società mediatizzata, e anche quelle società sono medializzate, queste di cui parliamo. Assolutamente sì. E quindi c'è una responsabilità molto grave. Io credo che dovremmo fare una battaglia interna qui, ovviamente loro faranno la loro là, e cercare di collegarsi, però fare una battaglia qui nel senso di criticare ferocemente, fortemente tutta la cosiddetta sinistra, se c'è ancora sinistra radicale, sinistra, cioè quelli che stanno a sinistra, diciamo, del PD, per capirci, una grossa battaglia interna per far cambiare ottica, perché questa mitizzazione della democrazia e della piazza come produttore della democrazia interclassista, tra l'altro, diventa, è chiaro che va abbandonato per dare almeno più risalto, perché è chiaro che un avvenimento come l'occupazione di quelle case lì al Cairo, ignorata dai media, è chiaro che ha significato una depotenzializzazione di un processo che poteva invece moltiplicarsi. Oltretutto sì, anche perché ricordiamolo, appunto, qualche mese fa vi era stata questa occupazione in realtà di poche famiglie che avevano occupato una piccola parte di un comprensorio di palazzi che erano stati costruiti dal governo egiziano per i colletti bianchi, che in realtà erano rimasti abbandonati da 3 anni. Ecco, quell'occupazione da pochi appartamenti poi si è estesa a tutto il comprensorio, stiamo parlando di più di 2000 appartamenti che sono stati occupati nel giro di 2 giorni, e di un'organizzazione, che in realtà di un'associazione di persone che comunque aveva tentato poi di gestire questa occupazione, proprio cercando di porre all'attenzione dei media il problema abitativo in Egitto, in particolare nelle grandi megalopoli come il Cairo. Anche lì si deve ammettere, da una parte, la deficienza, diciamo, quindi proprio la mancanza di mediatizzazione dell'evento, ma si deve anche allo stesso tempo evidenziare poi la poca pragmaticità e la poca visione di lungo periodo che questa associazione ha avuto, che comunque si è fatta tra virgolette abbindolare dalle autorità cairote, dicendo appunto, seguendo i loro consigli, che nella sostanza dicevano praticamente di dover attendere un attimo ordini dall'alto per vedere se gli venivano concesse o meno queste case, e poi dopo, in un momento di stanca dell'occupazione, sono arrivati allo sgombero di tutto l'intero comprensorio, una sorta di città nuova che si trova appunto poco al di fuori del confine, diciamo, istituzionale del Cairo. Quindi vi è anche poi dopo, anche da parte loro, un problema di esperienza e di pratica, proprio perché l'organizzazione non vi è dietro un'organizzazione pronta ed efficiente. E quindi anche qui sono d'accordo con te quando parli della carenza delle forze politiche di sinistra, appunto della sinistra, diciamo, occidentale, in particolare italiana, ma non solo, nel sostenere questo tipo di lotte, perché in realtà ormai non lo si fa più nemmeno in Italia, quindi perché dovrebbero farlo appunto in contesti così apparentemente lontani, anche perché quando mi raccontavi appunto della circolazione di saperi anche proprio nella lotta che avveniva in passato, negli anni 70, 80 magari, in Italia, verso contesti extraeuropei, questa è una cosa che non avviene più, perché in realtà poi il problema è arrivato, insomma questa carenza di sapere e di saper lottare è appunto arrivato e ormai si è diffusa anche nel territorio italiano, quindi c'è poco da insegnare oggi, insomma, a loro. Forse ci sarebbe proprio da riapprendere qui proprio in loco. Bene, non so che possiamo concludere qui. Ovviamente quest'anno continueremo, so che ogni sabato, no, a fare un osservatorio, cercando di tirar fuori quello che la realtà di conflittuale, e comunque conflittuale continua a essere, queste realtà proporranno, cercando di tirar fuori quello che è l'elemento che appunto viene per lo più ignorato, però può dare ciò che produce, diciamo, la natura, l'elemento centrale dello scontro di classe anche in questo paese. Sta di fatto che oggi appunto la situazione in Egitto e in Tunisia è abbastanza difficile, insomma, per le forze di sinistra, diciamo, per quelle di parte. Sì, sono praticamente sia in Egitto che in Tunisia, all'interno dei parlamenti, diciamo, dei rispettivi parlamenti o comunque delle camere elette, assemblea costituente in Tunisia, il Parlamento, l'ultima tornata si è conclusa pochi giorni fa in Egitto, poche ore fa anzi, lì le forze, diciamo, di sinistra tra virgolette sono veramente poche, in realtà possiamo anche non definire di sinistra, perché infatti partiti di sinistra sono all'interno di coalizioni dove coesistono appunto partiti ultraliberisti con appunto, certo, partiti cosiddetti socialisti, quindi in realtà nel Parlamento non vi sono forze radicali. Questo poi naturalmente bisognerà vedere come poi le forze islamiste più sociali, come appunto sono quelle salafite, che per esempio in Egitto hanno ottenuto più del 25% dei consensi, riusciranno poi a cooptare il malcontento sociale, perché sono in realtà e hanno ottenuto forza e vigore proprio dal malcontento sociale, però lo dirottano ovviamente sul terreno salafita, e qui è la battaglia, è tutta all'interno, è tutta di questo da vedere. Beh, sì, certamente quello che dici tu, dati il quadro della situazione parlamentare, non è in Parlamento che si continua la battaglia, è sul sociale, anche perché poi un'ultima informazione per chi ci ascolta: se pensate che in Egitto all'epoca di Mubarak più o meno il tasso di popolazione che andava a votare si aggirava tra il 25 e il 30 per cento, nelle ultime elezioni egiziane, dopo i tre turni che ci sono stati per l'elezione alla Camera Bassa del Parlamento, l'Assemblea del Popolo, si è arrivati più o meno un 40-45%. In realtà, come vedete, non vi è una grande affluenza, perché in realtà le stesse persone che appunto sono andate a votare al primo turno poi a poco hanno visto e hanno capito come i giochi in realtà erano già fatti, quindi hanno capito loro meglio di noi che non era quello il terreno, è ancora una volta quello sociale, e con gli strumenti che chiaramente si devono dare, perché senza organizzazione, auto-organizzazione, chiaramente non vanno da nessuna parte. Bene, continueremo a seguire questa. Ringraziamo Anthony. Grazie a tutti. Ci sentiamo adesso un po' di musica.